Bilancia, gennaio. La bilancia inizia l'anno con un bel Giove nel settimo campo. Incontri e nuove collaborazioni saranno aiutati dal cielo. Attenzione però a possibili perdite o uscite economiche, perché Giove da tale posizione si oppone al vostro Sole. Questo vale in particolare per i nati nella prima decade. Il 18 di gennaio Mercurio riprende il moto diretto dalla vostra quarta casa, permettendovi di risolvere faccende legate all'abitazione o alla famiglia. Il 22 del mese Urano riprende il moto diretto, favorendo i cambiamenti in campo economico. Il 27 Venere entrerà in Pesci, favorendovi nel lavoro e rendendovi benvoluti da colleghi e superiori. Febbraio, l'8, Vesta, un asteroide, entrerà in Ariete, in opposizione al vostro Sole. Sarà un po' complicato andare d'accordo su tutti i punti con i vostri cari. Cercate di fare un esercizio di tolleranza, arte nella quale siete già molto esperti. Il 18 il Sole entra in Pesci, portando chiarimenti sul lavoro ed aiutandovi a capire in che modo migliorare il vostro stato d'animo e il vostro umore. Orientativamente, da questa stessa data, anche i nati nella seconda decade inizieranno a vivere gli effetti dell'opposizione di Giove. Si potranno sentire un po' sotto pressione o sopraffatti da spese e oneri. Il 20 anche Venere entrerà in Ariete, sarà una nuova stagione di incontri, ma per i nati nella prima decade potreste sentirvi un po' soli e incompresi. Marzo, il 2 del mese, Venere in Ariete congiunta a Giove potrà favorire gli incontri. In questo mese molto molto speciale di epocali cambiamenti. Il passaggio di Saturno in Pesci a partire dal 7 del mese vi farà sentire un poco sotto pressione sul lavoro. Non abbattetevi, perché saranno sforzi che porteranno a soddisfazioni, dando il tempo necessario. Altro passaggio storico sarà l'entrata di Plutone nel segno dell'Acquario, quindi il teatro della scuola di potere non sarà più la famiglia, quanto il rapporto con i figli o, per chi è solo, i rapporti d'amore, quelli che fanno battere il cuore. Il 25 del mese Marte entra in Cancro, attivando la vostra grinta anche nelle faccende di lavoro. Aprile, il 3 del mese, Mercurio entrerà nel segno del Toro, saprete sbrogliarvela bene anche in campo finanziario, tanto più che Giove ora obbliga riflessione e autocritica solo i nati nella terza decade. Dall'11 di aprile Venere entrerà in Pesci, portandovi un favoloso trigono da nona casa, aprendo a nuove conoscenze e viaggi, che siano della mente o del corpo, saranno comunque momenti di ricerca ed evasione. A partire dal 20 di aprile ci saranno dei contraccolpi di natura economica. Evitate progetti finanziari o speculazioni azzardate, o semplicemente limitate le spese dove possibile. Maggio. Pallade entra in Leone, nel vostro undicesimo campo potrete discernere meglio le amicizie, sapendo come elaborare le giuste strategie per essere accettati e compresi al meglio dai vostri amici e conoscenti. Dal 7 Venere entra in Cancro, nel vostro decimo campo. Saprete essere ancora più diplomatici e garbati e nessuno potrà dirvi di no. Approfittatene. Dal 16 di maggio Giove entra in Toro e avrete modo di trovare le giuste soluzioni per ottimizzare i vostri investimenti ed esprimere la vostra passione senza sentirvi troppo imbrigliati dalla mente. Il 20 Marte entrerà in Leone, portando nuove imprese e nuove azioni. Vi sentirete dinamici e motivati. Agirete con coraggio ed intraprendenza, condividendo i progetti con altri in buona sintonia e condivisione. Giugno. Il 5 di giugno Venere entrerà in Leone, dove vi stazionerà per molto tempo. Sarete quindi a lungo sostenuti dalla dominatrice del vostro segno, dalla nona casa. Si apriranno dei nuovi orizzonti nella vostra vita e i progetti e nuove amicizie saranno all'insegna dell'armonia e del rispetto. L'11 di giugno Mercurio entrerà in Gemelli, sarete propensi agli spostamenti o ai viaggi della mente. Il 22 Giunone entrerà in Cancro e avrete il desiderio di affrontare le relazioni con maggiore coerenza ed intensità. Possibili incontri o alleanze in ambiti lavorativi. Dal 17 giugno Saturno diventa retrogrado, aiutandovi a rielaborare il vostro modo di vivere le relazioni, portando ad una costruttiva autoanalisi. Tra il 20 e il 22 sia il Sole che Giunone entreranno in Cancro, aiutandovi a mettere chiarezza e correttezza nelle relazioni di lavoro. Poi, dal 27, anche Mercurio in Cancro vi aiuterà a dirimere le controversie e portare trasformazione positiva nelle relazioni professionali. Luglio, il 10 di luglio Marte entra in Leone, portando nuove amicizie. Poco dopo entrerà anche Mercurio, sostenendo ulteriormente le comunicazioni e negli scambi. A partire dal 12, l'entrata del nodo nord nel vostro settimo campo segnerà l'inizio di una fase karmica che toccherà le relazioni. Potrete fare incontri speciali dove percepirete delle emozioni difficili da spiegare, mentre nelle relazioni già esistenti potrete ritrovarvi a sbloccare dei nodi del passato. Dal 23, Venere inizia il suo moto retrogrado in Leone. Sentirete il bisogno di analizzare bene le vostre emozioni e valutare il da farsi con molta attenzione. Dal 28 del mese, Mercurio in Vergine vi aiuterà a guardarvi dentro e a fare chiarezza rispetto a delle dinamiche del passato. Agosto, il 2 del mese, l'opposizione di Mercurio a Saturno, nel vostro dodicesimo campo, potrà portare a dei cambiamenti nel lavoro e a un momento di chiusura emotiva o quantomeno di riflessione. A partire dal 23, il Sole entrerà in Vergine portando una riflessione dentro di voi e lo stesso giorno Mercurio inizierà il suo moto retrogrado. Avrete quindi modo di fermarvi e fare il punto sui cambiamenti avvenuti nei mesi precedenti. Il 27 del mese, Marte entra poi in Bilancia, quindi sarà favorita la passione, ma attenzione agli eccessi di tensione. Se vi sarà qualcosa che vi disturberà, troverete la forza di dirlo, gli altri sapranno accettarlo e comprendere il vostro disagio. Settembre. Il 4 di settembre Venere riprende il moto diretto, avrete modo di riallacciare con amicizie e aprirvi verso nuove conoscenze. Lo stesso giorno Giove riprende il moto retrogrado, portando stasi nelle vostre scelte di natura economica. Mercurio in Vergine riprenderà il moto diretto intorno a metà mese e l'autoanalisi dalla dodicesima casa diventerà costruttiva e dinamica. Il 23 finalmente anche il Sole entrerà nel vostro segno, aumentando il vostro innato carisma. Ottobre. Il 5 del mese Mercurio entrerà nel vostro segno, vi sentirete più liberi di esprimervi e avrete piacere a dialogare con molte persone. Il 9 Venere entrerà in Vergine e avrete modo di capire le sfumature più profonde dell'animo umano, riuscendo a dirimere le controversie sia fuori che dentro di voi. Marte entrerà in Scorpione il 12 e vi dovrete confrontare con scelte di natura economica. Non siate troppo precipitosi e vagliate bene tutti i pro e i contro. Dal 22 anche Mercurio in Scorpione potrebbe aiutarvi a comprendere meglio il da farsi, soprattutto nelle relazioni di natura passionale e per quel che riguarda le finanze. Massima attenzione intorno al 28 perché l'eclissi totale di luna del vostro secondo campo potrà mettere scompiglio nella vostra vita e farvi sentire destabilizzati. Attendete, se possibile, la luna piena successiva, cioè il 27 di novembre, per prendere delle decisioni importanti. Novembre. Venere entra in Bilancia l'8 del mese, sarete affascinanti e attraenti sotto tutti i punti di vista. Cogliete i frutti delle vostre buone azioni, è il momento di raccogliere. Dal 10 Mercurio in Sagittario vi permetterà di muovervi e aprirvi a nuovi percorsi, sia interiormente che esteriormente. Dal 19 Pallade in Scorpione vi potrà aiutare nelle scelte di natura economica e Marte in Sagittario dal 24 del mese vi farà sentire liberi e dinamici. Dalla luna piena del 27 potrete sviluppare nuove idee e approfondire delle conoscenze lasciate a metà per altri impegni. Dicembre. Mercurio entra in Capricorno, vi dovrete iniziare ad occupare delle faccende legate alla casa. Dal 4 Venere in Scorpione vi sarà di sostegno per le scelte economiche e vi porterà stabilità. Il 13 Mercurio inizierà il suo moto retrogrado per poi rientrare in Sagittario il 23. Avrete modo di rimettere a posto delle situazioni lasciate in stand-by con conoscenti ed amici. Dal 29, con Venere in Sagittario, potrete esprimervi in modo gioioso e caldo e vi sentirete compresi condividendo con gli altri le vostre emozioni più profonde. Nell'insieme l'anno segnerà un confronto con l'altro nei primi mesi per poi aiutarvi a stabilizzare le vostre risorse ma anche le vostre relazioni. L'estate sarà di grande apertura, mentre con l'autunno avrete modo di comprendere in profondità aspetti del vostro carattere che richiedono una trasformazione.